Ritiro truppe americane da molti teatri, ma quali sono le conseguenze? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The United States says it's sharply reducing its troop numbers in Afghanistan and Iraq. That we will implement President Trump's orders to continue our repositioning of forces from those two countries. I'm not going to give you a question. You are fake news. I hear a sound of victory. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Vi porgo i saluti anche da parte di Anton Natali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo. In regia c'è Valeria Bernardi. Così come vi ricordo il numero da comporre per SMS e WhatsApp, domande e commenti, 349-238-6666. Siamo sui social, cercateci Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Oggi proveremo a fare il punto e soprattutto le conseguenze dall'annunciato ritiro, se tutto va bene, entro il 15 gennaio, corposi tagli a quella che è la presenza militare statunitense in almeno due teatri, quello afghano e quello iracheno. Ma come la prenderanno i nemici storici degli Stati Uniti e come la prenderanno gli alleati e infine come la prenderanno le popolazioni civili che da anni in quei teatri soffrono di guerre costanti? Questo è il tema principale della puntata di quest'oggi. Noi intanto andiamo a sfogliare subito i nostri dossier. Il primo ci riporta a Hong Kong, ancora una volta il braccio di ferro tra il governo dell'ex colonia britannica e i parlamentari del Fronte Democratico. La polizia di Hong Kong ha arrestato tre ex parlamentari, questa volta dell'opposizione, per via di due episodi avvenuti, pensate, lo scorso maggio e giugno. All'epoca un liquido maleodorante era stato gettato all'interno dell'aula del mini parlamento della città mentre si discuteva, guarda caso, un controverso progetto di legge per criminalizzare la mancanza di rispetto dell'inno nazionale cinese. Ne parlammo a lungo all'epoca. La polizia ha dichiarato che dopo un'indagine approfondita i tre uomini sono stati accusati di aver utilizzato sostanze nocive con l'intento di causare danni, lesioni psicologiche o irritazione. I tre accusati, Ted Hui, Rai Chan e Choi Dik, sono attualmente detenuti, ma sostengono che il liquido era fertilizzante biologico. Gli arresti sono avvenuti dopo le dimissioni di massa del fronte pro-democrazia dell'Assemblea Legislativa di Hong Kong, di cui vi abbiamo dato conto giusto la settimana scorsa. Dal mini Parlamento di Hong Kong, sempre più svuotato delle sue competenze legislative, a quello turco, che ha approvato l'invio di truppe militari nel Nagorno-Karabakh dopo la fine delle ostilità tra Armenia e Azerbaijan. L'accordo è stato siglato, lo ricorderete, la settimana scorsa, con la mediazione soprattutto della Russia. Abbiamo dedicato ampie pagine con voci proprio dal campo, dalla prima linea in quella crisi. Il mandato conferito all'esercito turco dura un anno e fa parte di un accordo tra Ankara e Mosca per controllare il mantenimento del cessate il fuoco raggiunto la settimana scorsa e salvaguardare i territori conquistati dall'Azerbaigian a discapito dell'Armenia. Come forse ricorderete, come abbiamo raccontato, al momento già 2000 soldati della Federazione Russa sono presenti proprio per fare in modo che venga rispettato il cessate il fuoco. A questi si dovrebbe aggiungere un numero per il momento imprecisato di soldati turchi. Qual è il rischio? Beh, che sostanzialmente si vada a creare un teatro molto molto simile a quello siriano, in cui due nemici amici, per citare Walt Disney forse in maniera irriverente, o comunque due alleati che si guardano però un po' con un po' di distanza, siano nello stesso teatro, nello stesso luogo, a far mantenere un processo di pace tra due attori terzi. E poi in Repubblica Democratica del Congo, con due notizie, una buona, una cattiva. Partiamo da quella buona: è stata dichiarata la fine dell'undicesima epidemia di Ebola, che aveva colpito duramente la remota provincia dell'Equatore. Sono anni che c'è stato un ritorno di questo letalissimo virus, quello appunto di Ebola. L'ultima epidemia, la prima anzi scusate, recente, la provincia di Bandaka era circa tre anni fa, poi il nord-est in Kivu, quindi dall'altra parte del paese sostanzialmente, e adesso la provincia dell'Equatore. Ne ha dato annuncio tra gli altri la Federazione Internazionale di Croce Rossa. Mi preme sottolineare quello che possiamo solo immaginare, lo sforzo e l'impegno dei sanitari. Pensate a dover fronteggiare in tempi di pandemia da Covid-19 anche la sovrapposizione della pandemia da Ebola, che, come ricordavo, ha tassi di letalità che non sono assolutamente paragonabili con quelle del Covid-19. La brutta notizia invece è che continua quel conflitto silenzioso, latente, in tante regioni del Nord Kivu, quindi torniamo nell'est della Repubblica Democratica del Congo, al confine con Uganda e Ruanda, nel cuore della regione dei Grandi Laghi, zona ricchissima di materie prime, di risorse, in cui appetiti internazionali si mischiano a quelle che sono appetiti invece delle tante milizie. Pensate che in media in quella zona vi sono almeno 40 gruppi armati diversi che si contendono il dominio soprattutto sulle risorse minerarie. Ebbene, sono oltre 30 le persone uccise nella zona del Nord Kivu nelle ultime ore, 29 cadaveri ritrovati ieri nel parco del Virunga e poi 6 civili uccisi in un attacco sferrato contro un villaggio. Secondo i portavoce del governo del Nord Kivu, i due attacci si debbono alla DEFNALU, Allied Democratic Forces, è un gruppo, una milizia che secondo le maggiori, i principali analisti, arriva e riceve finanziamenti e milizie dal vicino Uganda, un gruppo di tendenza islamista che soprattutto nella zona di Beni, siamo proprio nel nord del Nord Kivu, ormai da anni semina terrore e panico tra la popolazione con attacchi indiscriminati. Ancora una volta un capitolo sanguinario si aggiunge alla recente tragica storia dell'est della Repubblica Democratica del Congo. E poi c'è uno sviluppo sulla questione peruviana, andiamo in America Latina, la stiamo un po' tralasciando in questi ultimi giorni, ma vi prometto e ci ripromettiamo di tornarci. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha annunciato che invierà una missione in Perù per valutare la situazione appunto dei diritti umani nel paese a seguito della crisi politica esplosa nei giorni scorsi e degli episodi di repressione da parte della polizia durante le manifestazioni. Manifestazioni cosa? Contro il governo dell'ex presidente Manuel Merino. Il governo peruviano ha confermato l'arrivo di una missione ad hoc dell'ufficio ONU, comunicando inoltre che l'Organizzazione degli Stati Americani invierà questa settimana stessa una missione di osservazione elettorale in vista delle elezioni generali dell'11 aprile del 2021. Una crisi in divenire, ma ripeto, ci ripromettiamo di fare un focus sull'America Latina nelle prossime puntate. Di crisi in crisi verrebbe da dire, come il Nagorno-Karabakh per anni è stato un conflitto latente, a bassa intensità come si dice, quello in realtà che riguarda il Sahara occidentale va visto un momento molto lungo di tregua, benché a farne le spese siano stati per tutti questi anni i civili e la popolazione sahrawi. Cosa è accaduto nei giorni scorsi? Vi abbiamo dato notizia di blocchi stradali e di una reazione violenta da parte dell'esercito marocchino. Una fotografia di ciò che sta accadendo in queste ore ce la dà Giulia Olmi, coordinatrice di CISP, progetti in Algeria, campi rifugiati sahrawi e territori liberati. Sentite. Il CISP, come altre ONG che sono presenti da decenni ormai nei campi di rifugiati, sono lì per adoperarsi per sollevare la popolazione dal punto di vista umanitario, in stretta relazione con la Mezzaluna Rossa Sahrawi e le agenzie delle Nazioni Unite presenti, il PAM, l'UNICEF, l'UNHCR in primis, che è proprio l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa per i rifugiati. Non è facile, nel senso che una situazione di rifugio cronico, di un'emergenza cronica, è difficile da sostenere e dipende assolutamente, una situazione dipende totalmente dagli aiuti esterni. Già in tempi normali si andava di crisi in crisi perché non si riusciva a portare un paniere alimentare dignitoso che garantisse un paniere minimo alimentare alla popolazione. In questo periodo saranno ancora e ancora peggio. Siamo tutti molto molto allarmati. A maggio insieme alle Nazioni Unite, come CISP e altre associazioni, hanno dato un grande appello perché i rifornimenti erano molto molto carenti. Adesso si rischia che con la guerra tutta la popolazione che vive nel Sahara occidentale, nei territori diciamo liberati, quindi quelli che domina il fronte polisario, si riverseranno nei campi ed è una tragedia. È una tragedia umanitaria, è una tragedia molto forte che ci coinvolge tutti quanti, che ci pone tutti quanti di fronte alle responsabilità. Ha parlato di guerra Giulia Olmi, coordinatrice del CISP per i progetti in Algeria, campi rifugiati sahrawi, un conflitto silenzioso rimasto distantissimo dagli sguardi della comunità internazionale, eppure non è nemmeno così lontano dall'Europa. Ma cosa è accaduto nelle ultime ore, se è vero che oramai forse si debba parlare di guerra? Sentite. Quello che sta accadendo in queste ore è il precipitare di una situazione che si protrae da 45 anni, da quando la Spagna, che era il paese colonizzatore, che ha colonizzato per un secolo il Sahara occidentale, è stato invitato più volte dalle Nazioni Unite a compiere questo, anche come tanti altri paesi colonizzatori, la vicenda coloniale. Non l'ha fatto, il Marocco ha invaso tutto il territorio e lì siamo rimasti. Nonostante dei grandi sforzi veramente importanti delle Nazioni Unite che sono stati fatti, come il piano di pace. Due cose aveva come mandato il piano di pace siglato: il cessate il fuoco, che quindi ha delle regole lungo un limite ben definito, e questo le due parti non avrebbero dovuto valicare, e soprattutto con mezzi militari. Il secondo è la celebrazione del referendum di autodeterminazione. Ricordo che il criterio, il principio di autodeterminazione è un principio base delle Nazioni Unite. Il popolo Sahrawi, proprio in virtù di questo appello, di questo criterio, doveva scegliere la forma di governo. Questo non è stato fatto. Il cessate il fuoco che è stato rotto dai militari marocchini che hanno varcato e questo confine è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quindi siamo in una situazione di guerra, è una situazione gravissima e tutti quanti siamo di fronte alle nostre responsabilità come comunità internazionale. Soprattutto quella di aver dissolto forse per troppo tempo lo sguardo dal Sahara occidentale e dalle istanze del popolo Sahrawi e del fronte del Polisario. Era Giulia Olmi, coordinatrice del CISP. Adesso però andiamo dritti al cuore della puntata. Forse potremmo sintetizzarlo con un'immagine: lo sceriffo statunitense che fa un passo indietro. Basta doppio revolver, basta calpestare sabbie non americane. Si torna a casa, il tutto entro il 15 gennaio. Ma è davvero così e con quali conseguenze? Questi ragazzi, uomini e donne, sono volontari. Arrivano qui come civili e li sottoponiamo ad un processo di trasformazione che ne fa dei soldati. Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. Bullshit, I can't hear you. Sound off like you got a pair. Sir, yes, sir. I see a line of cars and they are painted black. The leadership of Al-Qaeda has great influence in Afghanistan. La leadership di Al-Qaeda ha una grande influenza in Afghanistan. And supports the Taliban regime. E supporta il regime talebano. And tonight the United States of America makes the following demands on the Taliban. E stanotte gli Stati Uniti d'America fanno questa richiesta ai talebani. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Consegnateci tutti i leader di Al-Qaeda che nascondete nelle vostre terre. On my orders, sotto i miei ordini, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. L'esercito americano ha cominciato a bombardare i campi di addestramento di Al-Qaeda and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. E le installazioni militari del regime talebano in Afghanistan. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I have determined that it is in our vital national interest. Ho deciso che è interesse nazionale mandare altre 40.000 truppe americane in Afghanistan. in Afghanistan and Pakistan. Ho preso questa decisione perché credo che la sicurezza sia in pericolo in Afghanistan e in Pakistan. E così in 90 secondi Valentina Ternullo, Varela Bernardi ci hanno ricapitolato quello che è accaduto da quando è stata dichiarata la cosiddetta guerra al terrore dopo il crollo delle Torri Gemelle. Lo sceriffo statunitense, se è possibile, sempre appoggiandosi a quella metafora, si è appuntato un'altra stella al petto e ha imbracciato armi sempre più pesanti, portandosi sempre più lontana da quelli che sono i confini degli Stati Uniti, quindi la guerra in Afghanistan, poi quella in Iraq, poi le controverse relazioni col cosiddetto giardino di casa, la presenza in Somalia. Il tutto adesso, complice la volontà dell'amministrazione Trump, potrebbe, non dico essere cancellato, ma sicuramente ridotto, e di parecchio. In questa puntata, ve lo anticipo, daremo un sacco di numeri, in senso buono naturalmente. Il primo numero: entro il 15 gennaio, così come ha dichiarato Christopher Miller, che è il nuovo ministro della difesa ad interim dopo l'ennesima epurazione, o cacciata se preferite, da parte di Donald Trump di membri del suo staff, in Afghanistan le truppe statunitensi saranno ridotte da 4.500 a 2.005, in Iraq da 3.000 a 2.005, per un totale di 2.500 rimpatri. Miller ha precisato che la decisione arriva su raccomandazione del presidente Donald Trump. Non soltanto teatro Afghanistan, teatro medio orientale, c'è anche la Siria nel mirino, c'è anche la Somalia, proveremo a passare in rassegna tutti gli importanti teatri di conflitti o di guerra dichiarata in cui gli Stati Uniti sono presenti e promettono di prima o poi di andarsene in maniera più o meno massiccia. Partiamo allora dai numeri, perché sono importanti ed è importante ricordare i numeri e i costi di queste lunghe guerre. L'attacco terroristico alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 spinse l'amministrazione Bush a lanciare la guerra globale al terrorismo, che ha visto gli Stati Uniti impegnarsi attivamente in 80 paesi nel mondo grazie a 800 basi militari. Secondo il Cost of War Project della Brown University, il costo dell'impegno militare statunitense dopo 19 anni di conflitto ammonta a più di 6.000 miliardi di dollari. Questa stima non include gli interessi futuri sui prestiti ottenuti per finanziare la macchina bellica, che secondo il progetto aggiungeranno nei prossimi 40 anni circa 8.000 miliardi di dollari al costo complessivo. Le vittime dirette della guerra al terrorismo sono più di 800.000, ma secondo le stime del Watson Institute, le morti causate da fame, malattie e dai danni collaterali del conflitto sono 4 volte tanto, portando la cifra a 3 milioni. 7.000 sono i soldati statunitensi caduti, 8.000 i contractor privati, ma le stime mostrano che per ogni vittima americana si contano 6 vittime tra le forze di sicurezza irachene, afghane e pakistane, i principali teatri di scontro. Difficile quantificare i caduti tra le fila nemiche, ma le stime parlano di 110.000 vittime, mentre sono 335.000 i civili rimasti uccisi. Infine, il Cost of War Project stima che la guerra globale al terrorismo abbia creato almeno 37 milioni di sfollati da 8 diversi stati. Il dato include anche Libia, Yemen, Somalia, Siria e le Filippine. Gli Stati Uniti ad oggi rimangono il paese con la più alta spesa militare al mondo, 723 miliardi di dollari, in aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. Questi un po' di numeri che ci danno le dimensioni, il perimetro dentro il quale si compirà il viaggio di quest'oggi di Nessun Luogo è Lontano, grazie anche a voi e ai vostri messaggi al 349-238-6666. Fra i vari messaggi, quello di Alessandro: la decisione di rimpatriare le rimanenti truppe statunitensi in Oriente deve essere presa in accordo col presidente eletto, scrive l'ascoltatore. Perché Trump ha già deciso Questo getta ombre sul passaggio di testimone. Ha ragione Mitch McConnell. Il disengagement, il disimpegno, avrebbe un effetto molto deleterio, incoraggiando talebani e Stato Islamico al di là degli accordi esistenti. Così Alessandro, in realtà però, Alessandro, sono d'accordo quasi su tutto, casomai la mia opinione contasse qualcosa, ma in realtà la decisione di rimpatriare le rimanenti truppe spetta al capo supremo delle forze armate, che comunque è il presidente statunitense, quindi è assolutamente in sua facoltà, per il momento è al potere, quindi può prendere questa decisione. Decisione peraltro annunciata parecchie volte, quindi non ha mai nascosto il desiderio di, come diceva lo stesso presidente, riportare i ragazzi a casa. Solo due considerazioni sull'Afghanistan. Intanto do il buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Daniele Raineri, redazione esteri del Foglio. Daniele, buongiorno. Buonasera. Allora, tra pochissimo, Daniele, ti chiederò di aiutarmi a capire cosa comporta il disimpegno, soprattutto nel teatro iracheno e siriano. Solo due considerazioni al volo su quello che è il teatro afghano. Primo, il governo molto fragile, ma anche le forze armate afghane difficilmente reggeranno eventuali alzate di capo di talebani o gruppi jihadisti. NATO e contingenti internazionali seguiranno a ruota, lo ha detto Jens Stoltenberg, l'ha detto un esponente della NATO che abbiamo intervistato in una delle puntate di Nessun Luogo Lontano, per cui c'è il rischio di un vuoto assoluto dal punto di vista della presenza militare nel paese. Pensate alla provincia di Helmand, cui esiti nefasti degli ultimi scontri vi abbiamo spesso raccontato. Pensate anche a quelle zone che, grazie ai Marines ma anche ai soldati italiani, avevano visto villaggi che respiravano per un attimo, un po' di pace, magari i bambini potevano tornare a scuola. E su tutte, senza il cane da guardia statunitense, giusto per cambiare metafora, ma intendo in questo caso droni intelligence soprattutto, sarà difficile monitorare con cura se vi sarà una riorganizzazione di elementi dello Stato Islamico e di Al-Qaeda. E peraltro non si fa sentire lo Stato Islamico, non si fa sentire Al-Qaeda, ma si fanno sentire i talebani, un flash d'angezia battuto proprio adesso. I talebani hanno accolto con favore l'annuncio del Pentagono del ritiro dei 2000 soldati americani dall'Afghanistan. È una buona mossa nell'interesse dei popoli di entrambi i paesi, lo ha detto Zabihullah Mujahid, uno dei portavoce appunto dei talebani. Questo è il teatro afghano. Andiamo però su quello iracheno con Daniele Raineri. Il ritiro non è cospicuo in termini assoluti, quanto però può indebolire dal punto di vista strettamente strategico, geopolitico, la presenza statunitense a Baghdad e dintorni? Ma il ritiro non è cospicuo in numeri assoluti, perché ormai non stiamo più parlando di soldati di fanteria che vanno fuori dalle basi con le armi in pugno a controllare le strade, a montare posti di blocco e a girare casa per casa a vedere se ci sono nascondigli e armi. Stiamo parlando di personale altamente specializzato che si occupa di tutti quei compiti che gli iracheni non sono ancora in grado di fare, perché ovviamente non sono avanzati dal punto di vista tecnologico e organizzativo come gli americani. Quindi si occupano appunto dell'intelligence, intercettazioni, sorveglianza con i droni, sì, tutte quelle cose che danno un vantaggio sullo Stato Islamico e sui gruppi terroristici. Sì. E quindi diciamo, è anche quando si parla di guerre dell'America oltremare, in realtà ormai queste sono gigantesche operazioni di polizia molto costose in altri paesi per evitare problemi che poi possono arrivare fino in Europa, anzi che poi arrivano fino in Europa, certo, e in America. Certo. Quindi diciamo, anche andare a vedere il numero delle perdite in Afghanistan e in Iraq, si vede che sono molto basse e spesso sono perdite dovute a incidenti, per esempio negli spostamenti con i mezzi. Non sono neanche più perdite in combattimento, sì, sono perdite fisiologiche che qualsiasi esercito ha. Muoiono lo stesso numero di soldati, diciamo, anche quando sono nelle grandi basi in America, perché è naturale che se hai degli eserciti così grandi, certo, statisticamente... È una questione statistica, è una cosa, chiarissimo. Esatto, quindi non stanno morendo in combattimento, non sono in guerra, si occupano di fornire ai governi locali, che ne hanno disperato bisogno, un vantaggio tecnologico sui gruppi estremisti. Sì. E quindi ritirarli bisognerebbe pensarci due volte, ecco. E la state ascoltando l'analisi, il racconto di Daniele Raineri, che peraltro quel porta a porta degli iracheni lo ha vissuto, lo ha raccontato, ormai è passato qualche anno, Daniele, però eri a Baghdad in tempi molto caldi e fianco a fianco ai Marines, quelle cose le hai raccontate. Adesso è diverso, però adesso andiamo a sentire come vanno le borse e poi apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Lo sceriffo nel mondo fa un passo indietro, ma con quali conseguenze? Riduzione delle truppe in Afghanistan, ma anche in Iraq, in Somalia, nel nord della Siria. Siamo con Daniele Raineri, giornalista, esperto soprattutto di quelle zone e di quei conflitti, giornalista del Foglio, con il quale volevo aprire una breve parentesi su quella che è la questione del teatro, soprattutto nel nord della Siria. Qualche giorno fa il quotidiano Times of Israel riportava le parole di un diplomatico statunitense, James Jeffrey, che aveva ammesso candidamente che sostanzialmente si nascondeva il reale numero delle truppe statunitensi presenti persino alla dirigenza americana. Questo per evitare, come dire, dislocamenti o riduzioni improvvide dal loro punto di vista. Cosa accade in quel settore, Daniele? Perché ne hai scritto tanto su questi aspetti. Sì, quando ho letto quella notizia è venuto da mettermi le mani nei capelli, perché stavano ammettendo di aver ingannato il presidente degli Stati Uniti. Ed è una cosa senza precedenti. Diciamo il rituale, per essere teneri. È successo che negli anni scorsi Trump ha deciso che l'impegno militare americano in quella zona, la Siria orientale, che è una dove l'infestazione dello Stato Islamico è più forte al mondo, non era più necessaria. E quindi ha deciso di lasciare il campo a Erdogan. Poi è tornato sui suoi passi, si è ricreduto, ha rimandato alcuni soldati, i suoi comandanti sul campo l'hanno convinto che era necessario tenere dei soldati vicino ai pozzi di petrolio, e così ha consentito a rimandare, secondo lui, un paio di centinaia di soldati americani nella zona, quando invece sembra che siano molti di più. Il numero in questo momento esatto nessuno lo sa dal punto di vista ufficiale, sì. proprio perché i comandanti stanno imbrogliando, sì. Potrebbero essere 700, potrebbero essere quasi 1000, non si sa bene. Sì. E questo hai fatto bene a sottolinearlo, Daniele Raineri, perché mostra anche le frizioni che la presidenza Trump ha avuto con molti vertici del Pentagono, poi esplose con una serie di cacciate appunto dal Pentagono stesso. Beh, certo, bisogna, il segretario alla difesa Mark Esper è stato cacciato adesso, ma quello prima era stato cacciato perché si era rifiutato di approvare il ritiro dalla Siria. Era Mad Dog James, il famoso generale dei Marines che aveva accettato di fare da capo della difesa per Trump, e che poi se n'era andato sbattendo la porta perché non approvava queste decisioni prese di impulso. Sì. Grazie mille, Daniele Raineri. Abbiamo con te passato in rassegna quasi a volo d'angelo due quadranti molto interessanti che tu peraltro conosci bene, lo ricordo anche agli ascoltatori, per, come dire, restituire autorevolezza alle voci che intervengono qui a Nessun Luogo Lontano. Daniele Raineri, redazione esteri del Foglio, buona giornata e buon lavoro, Daniele, alla prossima. Grazie a voi. Intanto, nei vari sottopancia che scorrono sui grandi network internazionali, viene data la notizia di un lancio di razzi, in realtà avvenuto ieri oramai, da milizie non meglio precisate, siamo in Iraq, verso l'ambasciata statunitense di Baghdad. Quasi un segnale, una risposta immediata, ma questo è evidente, succede per qualsiasi annunciato ritiro. Il nemico si rinvigorisce, deve lanciare evidentemente segnali immediati, e nel lungo termine questa è la grande domanda che ci stiamo facendo. Per rispondere proviamo a tirare in ballo quello che è un attore fondamentale nella regione, e che è Israele. Con il progressivo ritiro degli Stati Uniti da vari fronti, ma pensiamo soprattutto all'Iraq, c'è il rischio, tra virgolette, di vedere un crescente ruolo militare proprio di Israele nel Medio Oriente. Lo abbiamo chiesto a David Asoni, l'ha raggiunto Antonio Talia, lui è editorialista del Jerusalem Post, sentite. Has a very long history of not deploying on a permanent basis outside of La dottrina militare israeliana, per lunga tradizione, non schiera soldati su base permanente fuori dalla sua area, o almeno non lo fa ufficialmente. Quando lo fa, non si tratta di soldati in uniforme. Israele si impegna in varie regioni quando si tratta di fornitura e vendita di equipaggiamenti militari. Lo abbiamo visto, per esempio, nel recente conflitto tra Azerbaigian e Armenia, dove Israele ha venduto droni al fronte a zero, vendite che sono di dominio pubblico. Penso che sia legittimo presumere che ci sarà un certo coinvolgimento di Israele in operazioni coperte, specialmente per quanto riguarda l'Iran. Al momento lo schieramento americano nelle aree vicine, come ovviamente l'Iraq, non è così nutrito. Le domande sul futuro dell'Iraq sono molto importanti per Israele perché, ad esempio, nel nord ci sono i curdi, che di fatto sono alleati di Israele. Ci sono le monarchie del Golfo a sud che stanno diventando sempre più vicine a Israele e ci sono le dinamiche interne in Iraq che invece assistono a una crescente influenza iraniana. La cosa più importante per Israele è che l'Iraq non diventi uno stato fantoccio manovrato dall'Iran, ma non credo che vedremo i jet israeliani in volo sull'area, né soldati israeliani o basi militari. Non assisteremo a nulla di tutto questo. Tutto si svolgerà dietro le quinte e saranno movimenti importanti e significativi, ma non credo che ne sentiremo parlare molto sui giornali. Un altro punto importante. Nel momento in cui l'Arabia Saudita aprisse il suo spazio aereo ai voli commerciali da e per Israele, si può immaginare l'impatto enorme che avrebbe un eventuale conflitto tra Israele e le monarchie del Golfo da un lato e l'Iran dall'altro. Ed è per questo che i responsabili della strategia militare iraniana sono molto preoccupati dallo spazio aereo saudita e dagli effetti che potrebbero seguire. Ma, di nuovo, siamo nel campo delle ipotesi e anche su questo non leggeremo molto sui giornali. But this is again it's all hypothetical and you're not going to read a lot about it in the paper. Il lato oscuro delle grandi relazioni internazionali, dell'attualità che cerchiamo di raccontare qui tutti i giorni a nessun luogo è lontano. Era David Asoni, editorialista del Jerusalem Post. Tra pochissimo con Umberto Profazio, analista per la NATO Defense College Foundation, apriremo un altro capitolo che è quello strettamente europeo. Vi ricordate qualche tempo fa, qualche mese fa, Donald Trump aveva anche annunciato un cospicuo, ma anzi massiccio, ritiro della presenza dei militari statunitensi in Europa. Precisamente in Germania. Partiremo proprio da quel punto. Adesso l'estratto. Nessun luogo è lontano. Fino a fine luglio si parlava insistentemente di questo ritiro, 12.000 soldati da ritirare dalle basi tedesche, 12.000 soldati statunitensi. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Umberto Profazio, analista del NATO Defense College Foundation. Buongiorno a voi. Allora, alla fine però non si è fatto nulla per il momento, è rimasto un annuncio, ma che segnale è? Disimpegno anche, diciamo, dall'Europa? Sì, a mio avviso l'annuncio del discorso è l'evidente sintomo di una presidenza del tutto eccezionale che sottintendeva la volontà del presidente Trump di smantellare progressivamente tutti i meccanismi di cooperazione militare tradizionali dell'Occidente, inclusa la NATO. Abbiamo visto diverse volte appunto la sua attitudine ostile nei confronti dell'organizzazione sì. dell'Atlantico del Nord. Questo fa parte comunque di quello che io definisco un isolazionismo muscolare che ha caratterizzato l'amministrazione di Trump, ma vedendola in una lunga prospettiva temporale, credo che gli Stati Uniti stiano cercando appunto di distogliere l'attenzione verso le cosiddette forever wars, le guerre apparenti nel Medio Oriente, spostando il baricentro verso l'Asia Pacifico. E questo non è una caratteristica solo dell'amministrazione Trump, ma è stata anche quella del presidente precedente Obama, con il suo pivot to Asia, appunto la necessità di contrastare l'ascesa della Cina nello scenario globale. Sì. Ma vi è una forte resistenza naturalmente dal Pentagono, perché possiamo pure tranquillamente disinteressarci del Medio Oriente, ma come si dice in genere, il Medio Oriente non si disinteressa di noi, quindi i focolai di tensione e di crisi richiamano costantemente l'attenzione degli Stati Uniti e anche dell'Europa verso quel teatro di crisi. State ascoltando la voce, l'analisi, il commento di Umberto Profazio, analista della NATO Defense College Foundation. Un po' di messaggi, li ho un po' trascurati, chiedo scusa agli ascoltatori. Shu: stiamo per passare da un megalomane Trump a un guerrafondaio Biden, vedremo ancora nuove guerre nel mondo. Staremo a vedere se vi sarà un cambio totale, radicale, anche di politica estera da parte della prossima amministrazione Biden, se tutto andrà come quasi tutti concordano dovrà andare. E recentemente Umberto Profazio, il ministro degli esteri della difesa tedesco, ha dichiarato testualmente che l'Europa è troppo debole per avere una difesa degna di questo nome senza NATO e senza Stati Uniti. Cos'è, un grido di allarme o un invito palese alla prossima amministrazione statunitense di stare a fianco all'Europa? Beh, è un evidente segnale delle difficoltà dell'Europa di rispondere a quei richiami costanti che vengono fatti dalla Commissione europea. Appunto abbiamo sentito parlare di questa commissione come una commissione geopolitica, ma anche i richiami fatti da Macron riguardo l'autonomia strategica dell'Europa. Ecco, dal punto di vista generale credo che in questo momento il disimpegno degli Stati Uniti da diversi reali, in particolare dal Medio Oriente, e le difficoltà dell'Unione Europea ad assumere una postura geopolitica sta creando un cambiamento degli equilibri nella regione medio orientale, in particolare nel Mediterraneo. Sì. E però, Umberto Profazio, mi viene da dire che questo gigantesco vuoto, tanti vuoti statunitensi sono colmati da attori che per il momento sembrano essere maggiormente ostili all'Europa. Penso alla Turchia di Erdogan, che nel Mediterraneo per il momento sta facendo un po' il bello e il cattivo tempo, un po' cattivo per noi. Sì, il disimpegno USA ha creato appunto questo ribattamento del Mediterraneo, dove delle potenze regionali, in particolar modo appunto la Turchia, sono state in grado di assumere una posizione maggiormente forte, quindi con la capacità di sovvertire ad esempio le sorti del conflitto in Libia. La Turchia è riuscita a fare un collegamento importante dal conflitto nel paese nordafricano e le questioni del Mediterraneo, le dispute dell'Italia nel Mediterraneo orientale, e questo la iscrive a mio avviso nel fronte dei paesi revisionisti. Questo disimpegno americano secondo me sta creando due fronti contrapposti in Medio Oriente. Il primo, che include determinate potenze che hanno un atteggiamento più conservatore, che cercano di mantenere naturalmente con le dovute eccezioni e sfumature lo status quo, come ad esempio Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Sì. E un altro fronte invece revisionista, in cui possiamo includere naturalmente la Turchia, come il Qatar e l'Iran. Sostanzialmente, e provo a sintetizzare, quel disimpegno che vi stiamo raccontando degli Stati Uniti da vari teatri, benché abbiamo snocciolato numeri che a livello assoluto non sono altissimi, rischiano di ridisegnare gli interi equilibri, con un'ultima conseguenza, che se l'Europa non decide da che parte stare, o non va a rinsaldare i legami con gli Stati Uniti, o non si dota di una, come diceva Umberto Profazio, una postura geopolitica degna di questo nome, che significa politica estera a tutto campo, che significa, se ce n'è bisogno, anche evidentemente politica militare, ne vedremo davvero delle belle. Grazie mille Umberto Profazio, analista NATO Defense College Foundation, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi. Allora, ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666. Ma di quale protezione militare dovrebbe aver bisogno l'Europa? Pensate davvero ci possa essere un'invasione da parte russa o turca? Assolutamente no, gentile ascoltatore, ma gli interessi europei si allargano. Se proviamo a, come dire, proiettare gli interessi economici, per esempio, ci allarghiamo in Nord Africa, ci allarghiamo fino alla Turchia, al Libano, ai Balcani, e molto spesso, ma senza passare per guerrafondaio, è evidente, la politica estera si fa anche con una postura militare, una proiezione militare di un certo tipo. Il Mediterraneo offre dei vantaggi innegabili ad alcuni attori, non è un caso per esempio che la Russia, ne abbiamo detto tante volte, che manca di un vero e proprio sbocco su un certo tipo di mari, non riesca ad avere quella postura geopolitica a cui faceva riferimento il nostro Umberto Profazio, anzi nostro NATO Defense College Foundation. Detto ciò, siccome questo è Nessun Luogo Lontano, vi ricordo che la nostra missione è raccontare, raccontare, raccontare. And strike. E darvi appuntamento a domani ore 16, non prima di aver ringraziato tutta la squadra, a tutti voi per essere stati all'ascolto. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.